Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Oggi prendiamo spunto da una notizia di questi giorni, la parola dell'anno scelta come sempre in questo periodo dall'Oxford Dictionary per riflettere sull'economia delle emozioni. Sì, perché la parola scelta in realtà non è una parola ma una faccina, l'emoji che piange di gioia. Quanto valgono emoticon, like, cuoricini e simili? Quanto pesano nell'analisi dei cosiddetti big data, l'enorme flusso di informazioni che passa dai social network, la vera e propria miniera d'oro per il marketing? Le emozioni, dicono gli esperti, sono la vera valuta del web. Vi raccontiamo poi la prima piattaforma italiana della sharing economy dedicata al mondo del pet sitting, una sorta di Airbnb per gli animali domestici. Focus sui trend dedicato invece al knitting 2.0, quando lavoro a maglia e tecnologia si incontrano. E per le parole chiave del marketing e della comunicazione, spazio all'amicizia. Hi everyone, I'm Rizzi and when I see emojis, this is what I hear. Hey, how's it going, bros? My name is Barry Bow! Welcome to In Real Life. So today we're gonna do emojis. I took a bunch of beautiful pictures of myself. Are you crying? It's just so funny. Oh, you're crying a lot. Are you okay? Call an ambulance. I'm dehydrating. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Provate a digitare emoji in real life su YouTube. Dalla ricerca risulteranno migliaia di video di youtuber più o meno demenziali intenti a dimostrare che cosa succederebbe se usassimo le faccine, gli emoji appunto, nella vita reale. Uno di questi video è firmato Oxford Dictionary, che quest'anno per la prima volta ha scelto come parola dell'anno una non parola, un pittogramma in gergo, cioè un disegno usato come elemento di scrittura, la faccina che piange di gioia. È questo dunque il neologismo più rappresentativo degli umori del 2015, il più usato in rete. Secondo lo staff del prestigioso dizionario, l'emoji con le lacrime ha vinto su parole come rifugiato, pensate, oppure sharing economy, un'altra delle parole finite nella shortlist. Al di là delle riflessioni sul prevalere dei segni grafici sulla scrittura nell'era dei social network, ci siamo chiesti quanto contano le faccine, gli emoji appunto, per chi si occupa di monitorare la rete, per dare un peso anche economico di marketing alle conversazioni online. Quanto vale oggi l'economia delle emozioni che passa dalla rete? Lo chiediamo a un esperto, è un economista che si occupa di qualità della vita e felicità con un occhio particolare ai big data e all'utilizzo innovativo dei dati economici sul benessere, autore di un libro che si intitola Pop Economy, Luciano Canova. Buonasera Luciano. Buonasera Maria Luisa e buonasera a tutti. Allora, quanto contano gli emoji nell'analisi dei flussi della rete? Beh, contano tanto perché basterebbe guardare alle nostre vite quotidiane. Chi di noi non utilizza all'interno dei vari social networks le faccine, che ovviamente sono sempre legate ai limiti cognitivi del nostro cervello. Tutto ciò che ci fa risparmiare tempo ed esprimere efficacemente un'emozione viene utilizzato. Stanno veramente diventando elementi del nostro contesto semantico. E conta tanto anche nell'analisi e monitoraggio da un punto di vista scientifico del sentiment, proprio perché si tratta di faccine che vengono utilizzate moltissimo. E faccio subito un esempio concreto legato all'Italia, perché il team di Voices from the Blogs dell'Università Statale di Milano da anni monitora proprio la felicità italiana attraverso i tweet postati dagli italiani, proprio facendo ricorso ad un'analisi semantica legata però all'utilizzo delle faccine dentro i cinguettii. Quindi l'indicatore di Twitter felicità che viene monitorato da Voices from the Blogs parte proprio da una classificazione dei cinguettii sulla base delle faccine felici o infelici che vengono utilizzate dagli utenti online. Ci sono proprio anche dei dizionari emotivi legati all'uso degli emoticon. Ovviamente c'è tutta una serie di problemi che vengono spesso sottolineati, legati al fatto che la faccina da sola non è in grado di cogliere alcuni sentimenti per la fattispecie, per esempio l'ironia, molto spesso il sarcasmo. Molto spesso un post che contiene una faccina felice in realtà sta esprimendo un'opinione tutta contraria alla felicità. È vero però che stiamo parlando di numeri giganteschi, quindi in media in Italia all'anno vengono postati 40 milioni di tweet. Su numeri così grandi, la regolarità con cui questo indicatore segue anche, diciamo così, fatti di buon senso, mostra che cattura abbastanza significativamente il sentimento della rete. Emoticon, like, cuoricini, ma anche sistemi per l'analisi delle espressioni facciali. Quanto vale l'economia delle emozioni? Sono, come dice qualcuno, la vera valuta del web? Beh, vale molto, posto che i dati sono il nuovo petrolio e che noi siamo immersi in un contesto emozionale, diciamo che riuscire a classificare le emozioni delle persone, appunto, sempre più si stanno sviluppando servizi che consentono, attraverso il riconoscimento facciale e i dati a disposizione, di tracciare le emozioni delle persone. È chiaro che questo può costituire un elemento, da un punto di vista di business, strategico per l'azienda. Cioè, noi siamo immersi in questo contesto in cui le emozioni giocano un ruolo chiave nelle nostre decisioni. Riuscire a classificare, definire, misurare le emozioni è ovviamente un asset per chiunque poi debba distribuire servizi. Nel fiorire di indicatori e classifiche ce n'è uno particolare di Gallup, che è la società di sondaggi americana, ci dà la lista delle nazioni ogni anno, delle nazioni più emotive al mondo. In cima alla lista ci sono di solito paesi del Sud America, quest'anno è così, anche paesi in via di sviluppo. Esiste un capitalismo delle emozioni e se sì, come funziona? Gallup è proprio un organismo internazionale riconosciuto per la misurazione di, diciamo così, di tutte queste variabili soggettive. La classifica delle emozioni in qualche modo ricalca quella di un altro indicatore che è stato presentato negli anni scorsi, che è quello dell'Happy Planet Index, un indicatore di felicità che è l'unico che non tiene conto del reddito al suo interno per misurare il benessere delle persone, e anche lì i paesi del Sud America si trovano tra le primissime posizioni in classifica. Diciamo che sicuramente la ricchezza di queste misure è importante come complemento a tutti quegli indicatori che cercano di catturare in qualche modo quanto una persona e dunque un paese sono ricchi e stanno bene. L'ultimo premio Nobel per l'economia, Deaton, che ha lavorato molto sui temi di felicità, ha fatto insieme a un altro premio Nobel per l'economia, Kahneman, un articolo scientifico, quello famoso che viene citato secondo cui oltre 75.000 dollari la felicità delle persone stagna, che distingue secondo me molto correttamente tra due componenti del benessere. Una è quella che viene chiamata life satisfaction, la qualità della vita, che è più strutturale, è legata proprio a variabili anche oggettive come possono essere il reddito, la qualità delle reti amicali, delle reti sociali. La seconda componente, l'emotional well-being, che è proprio il benessere emotivo, è invece quello di cui di fatto stiamo parlando, che è quello più meteorologico, se vogliamo, nel senso che cambia in modo abbastanza volatile e non prevedibile sulla base di ciò che avviene all'interno del nostro contesto. Le due dimensioni sono interdipendenti, è chiaro che la classifica come quella di Gallup va proprio a toccare quest'ultimo aspetto, va a toccare il nostro lato più emotivo, che è legato chiaramente al contesto, anche ai valori sociali e culturali, insieme agli altri fattori concorre a determinare questo concetto così complesso che è quello di benessere di una nazione. Grazie a Luciano Canova per essere stato con noi. Grazie a voi e buonasera. Ciao Maria Luisa. Sapete quanti animali domestici ci sono in Italia? Circa 60 milioni, 14 milioni di cani e gatti, 30 di pesci, 1.700.000 tra conigli, criceti e piccoli roditori in genere e 1.300.000 rettili. Numeri importanti per un mercato fatto di prodotti e servizi dedicati, un mercato assolutamente in linea con tutti i trend di consumo, tanto che subito dopo la pausa vi raccontiamo la prima piattaforma italiana della scena sharing economy dedicata al mondo del pet sitting. E poi dai neuro al bio knitting, quando il lavoro a maglia incontra la tecnologia, nasce il knitting 2.0. Restate con noi tra pochissimo. Angelo, non prendere impegni per il 2 di dicembre. Che cos'altro abbiamo in agenda? Ma è possibile che devo dirti tutto io? Saremo tutti alle 20:30 all'auditorium Gruppo 24 Ore in via Monte Rosa 91. Per Chiedimi se sono felice live. Sì, mi ricordo, l'ho segnato sull'agenda, segnatevelo in rosso anche voi. Sarete lì con noi, avremo diversi ospiti e parleremo della felicità. Che cosa ci rende felice dei nostri amici animali e come noi possiamo rendere felici. Per ricevere l'invito della serata dovete andare sul sito di Radio 24 e compilare il form dedicato all'evento. Ciao! Essere e avere. Pieno, mortecci ostri, pieno, figli di cane. Oh, no, non dire. Chi ha un animale domestico lo sa, non è facile trovare qualcuno che se ne occupi in nostra assenza. Nata per coprire questa esigenza, decollata grazie al boom della sharing economy, PetMe è la prima piattaforma italiana dedicata al pet sitting. Una community che mette in contatto chi cerca qualcuno cui affidare il proprio cucciolo con chi è disposto ad occuparsene. La startup è nata nel 2014, conta già 20.000 utenti, di cui 7.000 pet sitter, le persone che si occupano appunto di cani e gatti, ma non solo, anche pappagalli, conigli, tartarughe e animali esotici. La fondatrice Alice Cimini. Nell'estate del 2013 io e il mio compagno dovevamo andare via per un viaggio in America che ci avrebbe tenuti lontani circa un mese, e da lì appunto ci siamo chiesti: ma perché non esiste una piattaforma in cui io possa dire dove sono, possa dire quanti animali ho, il periodo in cui non sarò presente o comunque non potrò occuparmi di loro, e quindi immediatamente trovare i pet sitter più vicini che possano occuparsene. E da lì è nato PetMe. PetMe offre servizi di pet sitting a tutti gli animali, quindi che sia cani, gatti, conigli, ma anche animali esotici. Tu come utente proprietario inserirai il nome della tua città o anche CAP, immediatamente vedrai una lista di nominativi di pet sitter. Di ognuno di loro potrai leggere la scheda, il curriculum, eventuali certificazioni dove queste ci sono, la descrizione della casa, e potrai scegliere se appunto optare per un servizio presso il tuo domicilio o anche far ospitare il tuo animale. Vedrai subito le tariffe e ovviamente le recensioni, se quel pet sitter è stato già utilizzato da altri. Cosa fondamentale è che nella tua prenotazione inclusa l'assistenza veterinaria gratuita per le emergenze. Spesso chi è proprietario poi decide anche di essere pet sitter, no? Quindi abbiamo anche questa doppia faccia, insomma, dell'utente. Chi è pet sitter spesso o viene da un percorso professionale legato al mondo animale, educatori cinofili, veterinari, studenti di veterinaria, o volontari. Ad esempio, noi abbiamo tantissimi volontari che operano nei canili o associazioni appunto per il benessere animale, o anche ci sono tantissime persone, devo dire la verità, che magari hanno avuto tantissima esperienza con animali, che sono in pensione e che appunto si dedicano a questa passione. Ciao. Fai la maglia? Ah sì, e sto diventando brava. Ho eseguito una craniotomia su un ragazzo sveglio. Ho conosciuto una sorella che non sapevo di avere. E ho visto mio padre ed è stato... Beh, non lo so com'è stato. Stai bene? Ho il mio lavoro a maglia. Focus sui trend. La knit mania, lo sappiamo, è esplosa da tempo. La tendenza do it yourself ha riscoperto il lavoro a maglia in tutte le sue declinazioni, inclusi i knit caffè. Oggi però andiamo oltre, raccontiamo per così dire la fase 2.0 di questa tendenza, che ora incontra la tecnologia e sperimenta materiali e processi molto innovativi. Ne nascono prodotti veramente unici che ci facciamo raccontare da Lucia Cromezca di Future Concept Lab. Ciao Lucia. Buonasera a tutti. Allora, partirei dal neuroknitting, il primo tra i link che mi hai anticipato che mi ha molto incuriosito. In questo primo caso parleremo di una industrializzazione personalizzata. Neuroknitting è un sistema inventato da un gruppo di artisti per controllare in tempo reale una macchina per fare la maglia. Allora, che cosa hanno pensato? Hanno pensato di realizzare sciarpe che hanno come pattern le reazioni cerebrali. Il sistema è basato su Arduino e l'hanno battezzato Knitich. È collegato a un casco con degli elettrodi per l'elettroencefalogramma. La persona, mentre indossa il casco, viene sottoposta all'ascolto di musica. Le informazioni vengono elaborate, può essere il rilassamento, l'eccitazione prodotta dal cervello, viene tradotta in un pattern bicolore per questa macchina per fare la maglia e di conseguenza una sciarpa iperpersonalizzata che risulta decisamente unica. Quindi una sciarpa sintonizzata sulle proprie onde cerebrali. Assolutamente. Sempre l'abbiamo detto anche nelle puntate precedenti che le nostre scelte di consumo devono rispecchiare anche il desiderio di essere unici, ma anche attraverso la sostenibilità e la semplicità. Un altro esempio straordinario sono le scarpe sportive Bioknit, realizzate in un tessuto che sembra realmente sferruzzato, ma che in realtà è stato creato da una macchina per la maglia in 3D, utilizzando un solo polimero. C'è solo un materiale, si ispira alla natura, alla biomimesi e sfrutta ovviamente le nuove tecnologie, come abbiamo detto. Applicando il calore, il progettista Amno Liao ha capito che il tessuto in maglia può essere reso più compatto, più resistente dove c'è più bisogno, tipo sul tallone. Allora, che cosa succede? Meno parti per l'assemblaggio della scarpa garantiscono un riciclo estremamente più efficace e semplice. Nuovi processi, stampa 3D appunto abbiamo sentito, e poi si sperimentano anche molti nuovi materiali lavorati come la maglia. C'è un'azienda leader per la produzione industriale di contenitori di plastica, si chiama Ketter. Da diversi anni stanno sperimentando con il team di progettazione e hanno capito che il desiderio dei consumatori per i prodotti fatti a mano sta crescendo. E che cosa hanno deciso? Hanno deciso di sviluppare un metodo per la stampa 3D che si ispira alla lavorazione a maglia artigianale, creando una nuova superficie però in plastica che assomiglia ad un tessuto morbido, una maglia realizzata in plastica con colori molto contemporanei che gli permette di realizzare accessori e mobili per la casa. Si chiama Knit Collection. È come se avessimo tricottato un po' tutti i nostri oggetti di casa. È una collezione davvero bellissima, vale la pena di andare a vedere online. Ovviamente ci sono tanti progettisti che lavorano verso questa direzione, come per esempio Agota Grabitz. Per realizzare le sue translucide e morbide borse ha puntato a materiali insoliti, una combinazione veramente audace di cavi e corde colorate insieme ai fili da pesca, e ha ripensato la tecnica per la macchina per la lavorazione a maglia e ha presentato una straordinaria collezione. Si distingue sia per i materiali ma sia anche per la forma, perché ha pensato alla forma caratteristica delle borse, quelle che usavamo una volta, cioè il popolare sacchetto per la spesa a rete, no? E ha riabilitato questa borsa utilizzando fili da pesca, ma un risultato assolutamente contemporaneo. Chiudiamo, Lucia, con un oggetto molto particolare che a me personalmente piace moltissimo. Invitiamo gli ascoltatori ad andarlo a vedere nella gallery che abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook, che contiene ovviamente anche tutti gli oggetti precedenti. Sono coperte, ma non solo, lavorate con punti a maglia grandissimi, e per farle vengono utilizzate dei ferri giganti. Anche per me è un esempio fantastico, anche perché ci fa capire che la nuova sfida è rigenerare creativamente le regole dello standard, anche perché lavorare la maglia è uno standard. Ecco, il progetto Chunky Knit Blankets, che significa letteralmente coperti in lana grossa, è proposta da un studio di design che da sempre sta proponendo prodotti per la casa fatti a mano. La designer ucraina ha iniziato a sperimentare con un filato in lana merino veramente morbido e sensoriale. È questo che le ha dato l'impulso di lavorare la maglia per creare delle coperte, usando dei ferri però giganti, realizzati su misura per poter creare questa sensazione di accoglienza. Tra l'altro, qualche giorno fa il progetto è apparso anche su Kickstarter per la campagna fundraising, dove ora le coperte vengono realizzate addirittura completamente con le sue mani, senza l'utilizzo di ferri, ma utilizzando le proprie braccia come unico strumento di lavorazione e creando dei punti grossissimi, no? Circa di 8 centimetri. Il processo che lei ha inventato è assolutamente sui generis. Grazie a Lucia, alla prossima. Alla prossima. Il consumautore. Siamo in chiusura e allora ci ha raggiunto in studio, come sempre, il nostro ospite fisso, il sociologo Francesco Morace. Ben trovato. Grazie Maria Luisa, buonasera a tutti i radioascoltatori. Questo è lo spazio dedicato alle parole chiave del marketing e della comunicazione. La parola di oggi, Francesco. La parola di oggi è friendship ed è anche come cambia l'idea di amicizia in tempi di paura diffusa, no? Quello che è avvenuto a Parigi è chiaro che ci colpisce e continuerà a emozionarci per i prossimi mesi. E quindi ecco l'idea del come sta cambiando l'idea di friendship, di friend, da Facebook fino invece all'amicizia intesa come vissuto di prossimità. Così come Facebook ha dato appunto alla parola amici un significato del tutto diverso, funzionale alla relazione sul web, la sharing economy, meglio la crowd economy perché a me piace di più in questo periodo chiamarla così, ha fatto la stessa cosa con la parola fiducia. Sì, ha fatto questo e qui, come spesso facciamo, diamo anche un riferimento teorico, un bel libro che si chiama Crowdfunding di Pais, Peretti e Spinelli, che propone 5 principi nella relazione tra amici e capitale, no? In qualche modo, quindi i tuoi amici sono il tuo capitale e questo vale anche per Facebook e social network, i tuoi amici però realizzano i tuoi sogni, quindi l'idea dell'affinità elettiva, il tuo capitale dipende dal numero dei tuoi amici, quindi misurazione, il tuo capitale dipende anche però dalla fiducia e aumenta con il passaparola, quindi in questo senso bisogna davvero ripensare a un'idea di amicizia che non si sta svilendo ma si sta rafforzando attraverso modalità nuove. Ecco, così come gli amici su Facebook non sono necessariamente i tuoi amici di una vita, la fiducia in rete è una fiducia fatta di feedback e non di consuetudine di vita. Che cosa comporta questo cambiamento? Si ritrova anche il vecchio concetto convivono? Che cosa succede? Succede che come sempre bisogna avere intelligenza nel praticare questa idea di amicizia. Ci sono naturalmente dei rischi e dei limiti, cioè di rendere più superficiale il rapporto con i tuoi amici, ma è anche vero che può aumentare direi proprio il capitale di fiducia, perché tantissimi in realtà usano i social network per stare più in contatto con i propri amici, quelli veri o addirittura i parenti. Quindi come sempre abbiamo il lato oscuro e quello invece illuminato. Grazie, alla prossima. Grazie a te Maria Luisa. E grazie anche in regia a Gianmarco Ferronato. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima. Non mancate un saluto da Maria Luisa Pezzali.